Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben trovati a Salva Danaio, una nuova puntata insieme a voi nel corso della quale ovviamente continuiamo a monitorare l'andamento del mercato. Effettivamente da qualche giorno a questa parte abbiamo trascurato, stiamo trascurando i tradizionali temi di servizio di Salva Danaio, sui quali ritorneremo naturalmente per esempio domani, indistintamente, indifferentemente rispetto alla, come dire, evoluzione politica. Ci rioccuperemo di mutui anche alla luce del dato che ha riferito prima Enrico Pagliarini nel corso del giornale radio, con questo crollo delle richieste di finanziamento per comprare un immobile da parte delle famiglie italiane, molte famiglie in difficoltà anche per coloro che hanno già un mutuo, appunto, e che non riescono a restituirlo mensilmente. Come sapete, sono in scadenza le moratorie organizzate negli ultimi mesi dall'Associazione Bancaria Italiana, dalle banche italiane, con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, per cui domani rifaremo un po' un punto della situazione su questo tema. Quindi questo per dirvi che sui temi di servizio nostri più affezionati, appunto, ci ritorneremo naturalmente a partire dalle prossime giornate, però in questi giorni è più che mai importante invece monitorare quello che accade sui mercati finanziari, anche alla luce di quello che è accaduto da martedì scorso, alla luce di quello che è accaduto ieri sul mercato, una giornata che è stata particolarmente nervosa. Ne abbiamo viste tante nelle ultime settimane, ma ieri si è verificato davvero una coincidenza piuttosto forte e palese di questa relazione, che ha dimostrato con chiarezza la relazione fra mercato e politica. La giornata di Piazza Affari ieri è stata letteralmente lo specchio di quello che accadeva a Roma nei palazzi, perché che cosa è successo? Una giornata che voi ve lo ricorderete perché l'abbiamo seguita naturalmente in diretta, era partita con dei segnali pessimi, la borsa era negativa, lo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi aveva toccato il suo record storico assoluto, 491 punti base, il rendimento sul titolo decennale italiano era arrivato al 6,68%. Poi cosa è successo? Che ha cominciato a diffondersi in borsa la voce delle possibili dimissioni in arrivo da parte del Presidente del Consiglio e c'è stata un'inversione di tendenza. La borsa ha preso a volare, è arrivata a guadagnare anche il 3% e lo spread ha avuto una netta discesa. Poi la smentita delle dimissioni, la borsa ha ritracciato anche se poi ha chiuso positivamente e lo spread ha ripreso quota chiudendo ieri a 485 punti base. Oggi cosa sta succedendo? Che la borsa è positiva, guadagna l'1,43%, ma lo spread è ancora su livelli record e stamattina ha di nuovo riaggiornato un record a 496 punti abbondanti e quindi, insomma, da qui notiamo il nervosismo che pervade gli investitori internazionali quando ci guardano e quando decidono di prendere delle posizioni sul debito italiano. Per fortuna che la Banca Centrale Europea continua a comprare i nostri titoli, se no chissà dove saremmo arrivati. Probabilmente questa soglia preoccupante del 7% del rendimento del titolo decennale italiano forse l'avremmo già toccata, non si sa, ed è una soglia che non vorremmo vedere, ci auspichiamo di non vedere, perché è quella soglia successivamente alla quale la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo hanno fatto richiesta alle autorità monetarie e finanziarie internazionali, appunto, di aiuto. Quindi novembre che è cominciato male, un'altalena sulle borse, sul mercato obbligazionario, e tutto questo sicuramente non contribuisce ad allontanare tutte le preoccupazioni dei risparmiatori che temono per i propri investimenti e, al di là del legame sempre più stretto fra le decisioni della politica e l'andamento delle borse e dei titoli di Stato, oggi a Salva Danaio torniamo naturalmente a commentare tutto questo, a fare il punto sui mercati, analizzando questa volatilità e, se ce la faremo, se potremo farlo, consigliando i risparmiatori preoccupati su come attraversare questa fase, affrontarla al meglio, comunque con serenità. Buongiorno e grazie per il suo intervento a Salva Danaio, il professor Stefano Caselli, professore ordinario di economia dei mercati e degli intermediari finanziari al Dipartimento di Finanza della Bocconi di Milano. Benvenuto, buongiorno. Grazie a voi. In collegamento da Monaco abbiamo un ospite al quale tenevo molto, lo devo dire, perché siamo un po' a loro, li stiamo un po' cacciando, diciamo, no, senza nulla togliere al professor Caselli. Grazie, naturalmente. Ecco, sento, non si senta sminuito naturalmente, però li abbiamo voluti fortemente, i signori di Pinco. Allora, per chi non lo conoscesse, Pinco è il più grande fondo di investimento obbligazionario al mondo. Quando parla Bill Gross negli Stati Uniti, tutto il mondo si movimenta, naturalmente lo chiamano The King of Bond, cioè il re dell'obbligazione, soprattutto di quella governativa. Naturalmente ci sono anche dei referenti europei. Lorenzo Pagani è responsabile del settore obbligazionario governativo appunto di PIMCO, con sede a Monaco. Dottor Pagani, buongiorno e grazie di essere intervenuto a Salvadanaio. Buongiorno. Buongiorno. Le è piaciuta la presentazione? Molto bella. Grazie. Allora, tutto questo naturalmente perché cominciamo anche con il sorriso nelle nostre trasmissioni, non vogliamo più preoccupare nessuno, non c'è niente da ridere naturalmente rispetto a quello che vediamo, però cerchiamo quantomeno di offrire degli spunti anche di tranquillità, se ce la faremo. Potete chiamarci come sempre all'800240024, scriverci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vi ho già detto che oggi la borsa è positiva, guadagna l'1,42%, Milano, recuperano terreno i titoli bancari, non tutti, oggi Intesa ha un riscatto del 4,57%, bene i petroliferi perché le quotazioni del greggio sono ritornate leggermente a salire, Unicredit più 2,59%, Piazza Cordusio sotto i riflettori, lunedì peraltro probabilmente il gruppo decide se andare avanti con questa ricapitalizzazione chiesta dall'Europa o meno, e poi insomma bene anche gli altri titoli del comparto, i peggiori Mediaset meno 2,55%, chissà se anche qua c'è una relazione, ma mi sembra abbastanza netta, con la politica. Atlantia meno 1,26, Snameret Gas meno 0,9%. Professor Caselli, all'università come la racconta questa crisi in questi giorni ai suoi studenti? Ma gli studenti chiedono, domandano, sono molto attenti. Devo dire che c'è una bella distinzione però fra studenti stranieri e studenti italiani. Non perché gli uni sono eccezionali e gli altri non lo sono, insomma, ma hanno logiche di comportamento diverse. I ragazzi stranieri che vengono dalla Cina e dall'India soprattutto vogliono cercare di capire che cos'è oggi l'Europa, che cosa stiamo facendo, quindi sono molto attenti, attivi nel cercare di capire non tanto l'economia ma soprattutto la relazione fra politica ed economia, non soltanto in Italia ma a livello europeo. Quindi molto, molto demanding, una sfida andare in aula e cercare di spiegare a dei ragazzi che cosa siamo noi, ai ragazzi stranieri. I ragazzi italiani vogliono sempre di più avere una prospettiva invece internazionale, quindi sì, sono interessati a capire che cosa accade oggi in Italia, ma vogliono soprattutto capire che cosa avviene fuori, sono cittadini del mondo in assoluto, e questo mi fa ben sperare non per domani mattina o per dopodomani, ma questi ragazzi sono la prossima nuova generazione e sono sicuramente delle persone molto più aperte rispetto a noi, molto più internazionali, non perché obbligate a essere internazionali, ma perché lo sono per natura. E questo, devo dire, nel lungo periodo potrà fare soltanto bene. Quindi tutti i suoi studenti italiani le stanno chiedendo delle tesi sul mercato, come dire, per approfondire le dinamiche del mercato cinese ed indiano, non sono interessati a fare delle belle monografie sullo spread? Ma sullo spread si fanno sempre, quello è un evergreen in assoluto, lo spread esisterà sempre, alto o basso che sia. Però indubbiamente l'attenzione è rivolta a capire oggi che cos'è la Cina, che cos'è l'India e soprattutto quale relazione ha l'Europa con questi paesi. Quindi se dovessimo dire la lista delle tesi più gettonate, sicuramente quelle. Poi lo spread c'è sempre, anche questo. Certo. Lorenzo Pagani, abbiamo cominciato in maniera un po' leggera la nostra trasmissione, a lei non chiederò naturalmente come spiega, non so a quali interlocutori appunto la crisi italiana, mi interessa invece capire PIMCO in questo momento che percezione ha del rischio Italia e come si spiega la relazione assolutamente diretta, che non è stata come dire, frequente negli ultimi anni, anche quando abbiamo avuto i momenti più drammatici della crisi finanziaria con Lehman Brothers e quant'altro, la relazione diretta che si è manifestata negli ultimi tempi fra finanza, economia e politica, non solo in riferimento alla situazione italiana ma anche europea, perché tutto ciò che è successo naturalmente negli ultimi mesi a Bruxelles ha poi avuto un riverbero diretto sull'andamento dei mercati azionari ed obbligazionari. Dottor Pagani. Come lei diceva giustamente, quello che domina adesso è sicuramente la situazione politica, e questo sia dal punto di vista interno per quello che riguarda la chiarezza riguardo le politiche economiche, sia dal punto di vista esterno all'Italia, ma pur sempre dal punto di vista europeo, per quello che riguarda quella che sarà la situazione in Grecia, quello che sarà la protezione rispetto ad un contagio e il perfezionamento di, a lungo termine, di quella che è l'Unione Europea, che oggigiorno è tutto sommato un'unione un po' imperfetta perché abbiamo un'unione monetaria ma non abbiamo chiarezza sull'obiettivo di unione fiscale. Il problema fondamentale, vede, da parte degli investitori è che gli investitori sono abituati a guardare agli investimenti, a cercare di analizzarli, a determinare quello che può essere il rischio e il prezzo. È un po' come se fossero abituati, diciamo, se ci fosse una macchina e fossero abituati a guidare la macchina. Oggigiorno gli investitori sono sul sedile posteriore, la macchina è guidata dai politici, dalle banche centrali, e il problema è che fra l'altro i politici, invece di guardare da fuori dal finestrino, sembra che stiano litigando tra di loro, non sono chiari su qual è la destinazione. E quindi al tempo stesso, fra l'altro, prendono delle deviazioni, e stare su quel sedile posteriore è molto difficile per gli investitori determinare quelli che sono gli effettivi fattori di rischio in questo momento. Professor Caselli, a lei l'ha stupita questa relazione diretta tra politica e finanza che si è manifestata palesemente negli ultimi tempi, oppure guardando magari anche ai cicli finanziari del passato queste relazioni si erano già manifestate con altrettanta chiarezza, o quello che è successo negli ultimi tempi è stata assolutamente una situazione inedita, almeno per portata anche in certi momenti? Politica e finanza sono sempre state collegate fra di loro prevalentemente nel passato in modo indiretto, quindi come una catena molto lunga che dalla politica va alla finanza. Adesso la catena, devo dire, si è accorciata, il rapporto è diretto, perché l'oggetto del contendere, che è poi il vertice ultimo della stabilità di tutto il sistema, è il tema del debito pubblico. Quindi finanza e politica si sono ormai chiaramente avvicinate, perché sul tavolo il problema è la grande quantità di debito pubblico. Quindi la partita si gioca su questo. Quello che devo dire mi lascia ancora oggi perplesso è che i nostri politici, al di là del giudizio che ognuno di noi possa avere, ragionano prevalentemente sul conto economico, quindi stanno ragionando ancora costi ricavi, no? Con i ricavi bloccati tutto sommato e sui costi che non si vogliono tagliare, mentre invece la partita è sullo stato patrimoniale. Quindi stato patrimoniale significa che cosa vogliamo fare sulla grande quantità di debito pubblico. Questo riguarda l'Italia, ma non è che la Francia e la Germania abbiano un debito pubblico marginale, e poi che cosa fare degli attivi dello Stato, del patrimonio dello Stato. Il patrimonio dello Stato può essere in parte ceduto, non svenduto, perché questo sarebbe una stupidaggine, ma soprattutto potrebbe essere gestito molto meglio. Allora, se lavorassimo su attivo e passivo, forse faremmo qualche cosa, devo dire, di buono. Se continuiamo a discutere su costi e ricavi, la partita la vedo abbastanza rischiosa da questo punto di vista. C'è anche da ricordare un'altra cosa, della quale parliamo spesso, ma secondo me qualche volta ce ne dimentichiamo anche, non dico che sia il caso italiano, è il caso di altri stati, molti governi hanno dovuto incrementare a dismisura appunto i propri deficit perché hanno salvato le banche, perché hanno dovuto aggredire una situazione economica devastante, per cui in questo momento si chiede a molti di questi stati, non parlo della Grecia che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, ha truccato i conti e quant'altro, ma si chiede di rientrare in termini drastici in tempi appunto molto brevi. Forse anche questo è un altro aspetto che andrebbe così un po' analizzato con un po' più di attenzione, però è molto facile dirlo da qua, e poi a Bruxelles invece in altri luoghi si devono fare ragionamenti di altro tipo ed essere molto più rigidi anche nella gestione di questa unione monetaria, che è comunque giovane, ha 10 anni, e quindi questa crisi la si deve tenere sotto controllo molto bene adesso. A Salvadanaio oggi la situazione sui mercati finanziari, naturalmente corriamo dietro allo spread come stiamo facendo da qualche settimana a questa parte, cercando di spiegare anche come mai si è manifestata in maniera così dirompente, così forte, soprattutto negli ultimi giorni, questa relazione diretta tra la politica, soprattutto italiana, e l'andamento dei mercati finanziari. Il mercato fa delle richieste precise, chiede delle risposte appunto alla politica, e questo è il motivo per cui poi, quando le risposte non sono soddisfacenti, la borsa va in un certo modo, e soprattutto in questo periodo il mercato obbligazionario va in un certo modo. Il mercato reputa più o meno appetibili o rischiosi i titoli di certi paesi piuttosto che di altri, e il mercato ha dato un responso chiaro in questi giorni, ha detto che i titoli decennali italiani devono riconoscere un rendimento molto alto per essere acquistati, e questo rendimento si sta pericolosamente avvicinando al 7%. Anche questa mattina il mercato è andato verso questa direzione, anche se la borsa appare più tranquilla. Con noi stamattina Stefano Caselli, professore ordinario di economia dei mercati e degli intermediari finanziari al Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi di Milano, e Lorenzo Pagani, responsabile del settore obbligazionario governativo di PIMCO. PIMCO è una delle più grandi società di gestione al mondo, gestisce qualcosa qualcosa come 70 fondi comuni e dichiara, lo leggo nelle comunicazioni del suo sito, di gestire nel 2011 qualcosa, un patrimonio come 925 miliardi di euro, quindi questo per darvi un po' anche l'idea delle cifre e dell'autorevolezza di questi ospiti, più grandi gestori nel settore obbligazionario. Pertanto, proprio in virtù di questa vostra autorevolezza, Pagani, io le chiedo, secondo lei ci metteremo poco o riusciremo a scamparla come italiani, come titoli obbligazionari italiani, a questo 7%, che è una soglia che è molto preoccupante? Come spiegavo prima, quando l'hanno toccata la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda, hanno dovuto fare ricorso all'aiuto finanziario internazionale. Credo che il primo passo sia quello di stabilizzare questo spread, questo rendimento. Adesso a 6,60 sì, siamo vicini a quel 7% fatidico. La realtà è quella di cercare di eliminare l'incertezza e stabilizzarci attorno ai livelli del 6%. Ma per fare questo, il problema fondamentale è che se uno guarda un BTP a 10 anni a 6%, il rendimento è molto alto, questo può essere un indice di opportunità, un indice di rischio, e la differenza sta nel vedere quali cambiamenti ci possono essere dalla situazione attuale. Se ci fermiamo sulla situazione attuale con un 6% di costo del finanziamento e il 120% di debito rispetto al PIL, non è realisticamente sostenibile nel lungo termine, in condizioni attuali di crescita potenziale, ed è per questo che in realtà ci si cerca di focalizzare nell'aumentare la crescita con politiche economiche credibili, e questo al tempo stesso dovrebbe attrarre compratori che abbasserebbero il rendimento, e si verrebbe a creare così una spirale positiva che renderebbe i rendimenti più bassi e renderebbe il debito sostenibile. Ecco, siamo sempre nella rosa degli auspici e delle previsioni, dottor Pagani. Lei lo vede possibile nel medio termine questo scenario per l'Italia? Lo vedo possibile perché si tratta innanzitutto dal punto di vista domestico, quella che è l'incertezza domestica può essere risolta, è una decisione politica. Quindi sì, è possibile. E non è ancora tardi per non poterci affare. Il 7% non è un livello che ha niente di speciale in sé. Il rischio è che arrivando a livelli così alti di spread si possa determinare un danno permanente a quella che è la domanda. Quindi, in altre parole, se il protrarsi della crisi, il protrarsi dell'incertezza per un tempo molto lungo a questi livelli di rendimento, corre il rischio poi che anche qualora vi fosse maggiore credibilità e i rendimenti scendessero, molta domanda da parte di investitori istituzionali non ci sarebbe poi per supportare l'abbassamento dei tassi di rendimento. Per quello che non credo che sia tardi, però bisogna fare in fretta. Dottor Pagani, questa bufera, chiamiamola così, non ci piace utilizzare termini che impauriscono i nostri ascoltatori, però di fatto la scorsa estate questo è quanto si è verificato sui mercati. Si è innescata nei confronti del nostro mercato, del mercato italiano, quando ha cominciato appunto a concretizzarsi questa massiccia fuga degli investitori internazionali dal nostro debito. Questa situazione appunto conclamata ad inizio agosto, parallelamente peraltro alla perdita della famosa AAA per il rating del debito statunitense, probabilmente c'erano sicuramente i fondi pensioni americani, c'era probabilmente anche PIMCO che fuggiva appunto dai titoli italiani. Adesso io non le chiedo di ricostruire appunto quelle vostre giornate, ma le chiedo, si metta magari anche nei panni di un piccolo investitore, no? Che cosa deve pensare rispetto ad un atteggiamento di un investitore del vostro peso che scappa in questa maniera appunto dal debito del suo paese? E mi chiedo qual è stato quel segnale che avete visto e che non vi è piaciuto affatto e che ha determinato appunto una scelta così importante di liberarvi dai vostri portafogli dei titoli italiani. Guarda, le dico esattamente quello che è successo sul mercato in generale durante l'estate, in luglio e agosto, perché questo è in funzione di come erano posizionati quasi tutti i portafogli degli investitori istituzionali in quel momento. Quello che era successo è che noi arrivavamo da una crisi dell'area euro che aveva investito paesi come la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna prima, e di conseguenza la maggior parte degli investitori che investivano in titoli di Stato europei hanno avuto la tendenza ad utilizzare l'Italia, a comprare rischio Italia come sostituto per questi altri paesi su cui erano sottopesati. Quindi la sfortuna, fra virgolette, che ha avuto l'Italia è stata di arrivare nel periodo di luglio con la stragrande maggioranza degli investitori istituzionali sovrappeso in Italia. A quel punto non è stato in realtà un problema esclusivamente italiano, è stato un problema più europeo nel continuare a protrarre quella che era l'incertezza della risoluzione della crisi greca, e gli investitori che erano sovrappesati hanno riequilibrato i loro portafogli. Hanno riequilibrato, quella è stata diciamo un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché poi quando ci si trova a riequilibrare di colpo tutti insieme, è certo, tutti ovvio. Insieme, quello è quello che poi determina una specie di effetto valanga. Professor... Ci tengo a dire che Pinco non era tra i più grandi che riequilibravano, perché noi eravamo stati cauti nell'arrivo già a ecco. Quindi noi eravamo sottopesati Italia, a dire la verità. Quindi ecco, in quel momento avevate più tranquillità di movimento. Professor Caselli, insomma, rispetto a quest'estate, ha sentito cosa ci raccontava appunto Lorenzo Pagani di Pinco sull'atteggiamento generale che si è manifestato in quel periodo, del quale ancora però ci stiamo leccando le ferite. Secondo lei la fine di questo tunnel si vede? Ma la fine di questo tunnel si vedrà se, come ha detto un mio studente indiano qualche giorno fa, discutendo, se voi italiani, mi diceva, questa volta farete vedere che fate veramente sul serio. Allora, è una frase molto banale, ma in questo c'è riassunto tutto. Quindi il tema è indubbiamente collegato alla politica, ma chiunque sarà, diciamo, il prossimo Presidente del Consiglio, a scadenza naturale, in caso di elezioni anticipate, ma tanto stiamo parlando di un fatto che al massimo avverrà nell'aprile del 2013, comunque chi prenderà quel posto dovrà fare veramente sul serio questa volta. Questo è l'elemento centrale. Se non si farà veramente sul serio, dove sul serio vuol dire due cose: abbattere il debito pubblico in maniera violenta e dare degli incentivi alla crescita veri, non finti o auspicati come quelli di cui stiamo discutendo in questi giorni, allora daremo il segnale forte ai mercati da questo punto di vista e potremo chiedere rispetto, e il nostro paese dovrà essere considerato non un prodotto sostitutivo della Spagna o della Grecia, ma della Francia o della Germania, questo è il punto. Se non faremo sul serio, beh, allora a quel punto... la luce in fondo al tunnel non la vedremo più e faremo dei danni permanenti, come è stato detto prima. C'è la Presidente di Confindustria, Marcegaglia, che intervenendo all'inaugurazione di una manifestazione qua a Milano poco fa ha detto: con uno spread da 500 non si va avanti. Altre dichiarazioni politiche, tanto così per darvi un po' il tenore di questa giornata: Berlusconi faccia un passo di lato, Alfano Premier, queste sarebbero le richieste di Umberto Bossi, quelle che ha fatto, raccolte dai giornalisti arrivando alla Camera. Ma andrei invece adesso, lasciando da parte un po' la cronaca giornalistica, invece a quella che fanno i nostri ascoltatori all'800240024. Mi interessava molto la posizione di Armando da Roma, che saluta. Armando, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Senta, io sono un po' arrabbiato con lei. Addirittura, proprio con me personalmente. Sì, arrabbiato perché io sono costretto, e mi piace molto ascoltarla, però lei, invece di imitare persone che facciano previsioni quasi sempre catastrofiche, potrebbe invitare persone costruttive. No, ma mi dica dove sono stati catastrofisti Caselli e Pagani stamattina, per carità del cielo. Anche oggi lei mentre il suo ospite parlava positivamente, lei gli imbeccava cose non positive. Mamma mia, Armando, non mi è sembrato di essere così cattiva. Detto questo, vada al sodo, non mi faccia fare il cruciale della situazione. Non conoscendola, io ho molta stima di lei. Sono molto alta. Anni, domani mattina vado a acquistare 35.000 euro di botte. Ma pensi quanto mi sarà grata Tramonti? Una volta. No, lei non l'ho ancora detto. Ma io una non volta. Lo posso dire, Armando, ma sta scherzando che io debba dare un messaggio del genere in radio? Ma ci mancherebbe altro, ma io non dirò mai una cosa del genere. Io chiedo ai gestori professionali quello che fanno, la posizione che prendono. Ma ci mancherebbe altro, Armando, anche che io mi metta a fare questo lavoro dai microfoni di una radio pubblica che ogni giorno raccoglie 2 milioni e 300 mila ascoltatori, Armando. Ci mancherebbe. Io, più che darvi la parola e farvi raccontare a voi quello che pensate, sentendo anche delle osservazioni così pesanti come quelle che mi ha fatto, cioè non so che cosa fare. Ci mancherebbe altro che io do delle indicazioni degli investimento alle persone che ci ascoltano. Allora, un paese si indebita fino al collo, i gestori non lo vogliono più comprare, di chi è la colpa? Dei giornalisti, naturalmente, che non suggeriscono che tipo di atteggiamento corretto bisogna avere verso certi prodotti di investimento. Lorenzo Pagani mi vuole difendere lei, ma se la provoco naturalmente. Si mette nei panni di un piccolo risparmiatore come quello che ci ha chiamato poco fa, abbastanza arrabbiato con me, ma questo per altri motivi. E il risparmiatore tipico italiano, che fino a ieri è stato il cassettista che comprava il BTP perché gli riconosceva la cedola annuale che utilizzava come integrazione del reddito. Ad un certo punto in molti gli dicono: guarda, stai lontano da questo strumento di investimento perché è diventato molto rischioso. Insomma, lei che cosa gli suggerirebbe di fare, proprio visto che fa il gestore anche di questi titoli? Ma guarda, io innanzitutto mi immedesimo un po', perché è il problema che abbiamo anche noi, perché noi gestiamo soldi per conto di clienti, e anche noi fino a 2 anni fa consideravamo titoli di Stato come, diciamo, puro rischio di tassi di interesse, quindi crescita, macro, inflazione, e adesso ci ritroviamo ad avere titoli di Stato che hanno in alcuni casi del chiaro rischio credito, in altri casi sicuramente una volatilità e quindi un rischio mark to market. Quello che dicevo, il problema, vedi, quando si tratta di titoli di Stato, il problema fondamentale è la capacità dello Stato di rifinanziarsi a dei livelli accettabili, e tutto sta nella credibilità. E quindi una delle cose principali che in questo momento stiamo cercando di valutare, di predire, è effettivamente la capacità dal punto di vista della politica italiana a dare delle risposte chiare per quello che riguarda un processo economico di riforme per la crescita. Questo è il primo passo necessario, sinceramente, che riteniamo sia necessario per riuscire a ristabilire la credibilità. L'altro importante, che è più un fattore tecnico, però è sempre legato a questioni politiche europee, è il supporto che la Banca Centrale Europea sta dando ai titoli italiani. Non dobbiamo dimenticare che la Banca Centrale Europea ha comprato circa 117 miliardi da agosto, di cui probabilmente 2/3, 3/4 sono titoli italiani. E questo è uno dei motivi fondamentali per cui finora riusciamo ad avere stabilità, nonostante abbiamo ancora un sacco di incertezza. Le dico solo che un ascoltatore mi ha prima contestato anche il modo con cui prima ho detto: per fortuna che la BCE compra i nostri titoli di Stato, altrimenti chissà dove saremmo arrivati come spread e come rendimento del decennale. Insomma, stamattina, come la dico, sbaglio. Professor Caselli, mi aiuti un po' lei, ma a parte la politica, anche il gergo giornalistico è così importante per tranquillizzare l'opinione pubblica, che ne pensa? Insomma, no, voi professori universitari invece proprio non avete più responsabilità nel raccontare bene le cose. No, ce l'abbiamo, devo dire, ce l'abbiamo e come. Ma penso che qualsiasi persona che sia esposta nei confronti del pubblico oggi, che sia un giornalista, un presentatore televisivo, un professore universitario, un opinionista, ha oggi una responsabilità largamente superiore rispetto al passato, perché c'è molta più incertezza, quindi siamo tutti sulla stessa barca. Tra l'altro, guardi, me lo segnalano molti ascoltatori che stamattina vedo che ho infervorato parecchio su questo tema. Invece di menare il torrone, mi scrive un ascoltatore, con lo spread fate una trasmissione sulla proposta di Melani. Giuliano Melani è questo imprenditore toscano che ha fatto pubblicare sul Corriere della Sera un annuncio a tutta pagina, che sa quanto ha speso per fare questo lavoro, per il sostegno appunto all'acquisto di titoli di Stato italiani, esattamente le considerazioni che faceva l'ascoltatore romano prima. Ma di queste campagne di difesa anche nazionale, professor Caselli, che cosa ne pensa? Si mettono in prima fila addirittura degli imprenditori che dicono: insomma, aiutiamo noi il nostro debito pubblico, ma possiamo fare ben poco, credo, per quanto ne possano comprare tutti gli imprenditori italiani. Però da un lato vuol dire che finalmente la comunità o la società civile, se vogliamo usare un'altra espressione, sta incominciando a reagire, quindi questo slancio passionale lo considero solo positivo. Se devo ragionare un po' più da tecnico, adesso lo dico malamente, poi vediamo gli ascoltatori cosa diranno: comprare in questo modo titoli di Stato vuol dire fare la patrimoniale, cioè vuol dire che i cittadini dal basso fanno la patrimoniale. Allora, forse più che comprare nuovi titoli di Stato, ecco, se volessimo veramente salvare il nostro paese, il problema vero sarebbe quello di fare una corretta equa, giusta, patrimoniale, che veramente vada a eliminare una parte del debito. Se no rischiamo di buttare via dei soldi, ecco, senza nulla togliere a questo slancio di entusiasmo che è solo benefico. E intanto altri ascoltatori continuano a dire, insomma, che utilizziamo degli eccessivi toni catastrofisti. Questo mi dispiace molto, perché davvero, lo dico anche a Luca da Bologna che ci scrive, perché non ritengo che sia così, e perché anche quando le giornate negative le si racconta in maniera più allegra, siamo contestati dalla parte opposta, cioè di essere poco consapevoli di quello che ci sta accadendo intorno. Ditemi voi qual è il tono giusto, io assumerò appunto queste note nella mia voce, sperando appunto di poterle cogliere al meglio. Carlo da Brescia, questa è bella, questa la voglio proprio sapere. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Innanzitutto vi ringrazio di avermi richiamato e volevo dire, devo smentire almeno a livello personale la sensazione che qualcuno ha relativamente al vostro comportamento giornalistico piuttosto pessimistico sulla questione che state trattando al momento, perché mi sembra che sia una grossa imparzialità e che vi siate... Ma voi non avete idea che sforzo. Comunque, Carlo, guardi, la ringrazio per la difesa. Andiamo alla domanda, che così diamo un po' di ciccia alla trasmissione. Più che una domanda, la mia è una considerazione. Ieri, indipendentemente un po' dall'orientamento che il dottor Milani ha dato un po' a tutti noi italiani, eccetera eccetera, abbiamo preso contatto con due istituti di credito qui a Brescia, molto importanti, e ci siamo accorti che non vogliono assolutamente far acquistare obbligazioni a interessi piuttosto elevati. Quali obbligazioni? Perché adesso io, se sono italiane, poi la chiamo e mi dice il nome di queste banche, perché facciamo fare anche qualche indagine. Oppure aveva chiesto altri titoli, obbligazioni, che ne so, magari di paesi emergenti. BTP, chiedevamo di BTP. Ah beh, andiamo bene. Chiedevamo di BTP ai 5,56%, non esistono, non ci sono quelli del 15 settembre al 4,25%, e noi stiamo uscendo. Se vuole faccio anche i nomi. Comunque, guardi, Carlo, gliele chiedo poi in privato. Devo purtroppo chiudere, perché tra un minuto altrimenti Rudy, il nostro Fabio Cantadori, mi sfuma e io non riesco a farla intervenire. Questa cosa però mi interessa molto, io la chiamo in privato, poi me la faccio raccontare nel dettaglio. Voglio chiudere con Lorenzo Pagani, perché altrimenti penserà stamattina che l'abbiamo invitato solo per sentire tutte queste invettive degli ascoltatori contro i giornalisti, ma non ci interessa. Le chiedo, Pagani, per concludere, magari se ce la facciamo, con un messaggio rassicurante, perché alla fine molti lo chiedono. Ieri Jürgen Stark, un membro della BCE, ha detto che la crisi del debito sovrano europeo la risolveremo in un paio d'anni. Data la portata di questi momenti, mi sembra una previsione piuttosto ottimistica. Voi che visione avete su questo, se ce la fa in 30 secondi? Grazie. Pinco. Io credo che la stabilità potrebbe arrivare in molto brevemente, nel giro di pochi mesi, e poi la soluzione dal punto di vista di Unione Europea si vedrà più nel lungo periodo, 2-3 anni. Grazie a Lorenzo Pagani, a Stefano Caselli. Salvadanaio torna domani, buona giornata. Grazie.